Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori della 24 in questa sabato mattina 6 di maggio, sono le 10:07 primi 40 secondi e Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre in diretta in podcast e in studio qui a uno dei compari. Carlo Alberto Carnevale Maffè, dove Mario? Mario non vedo i riccioli di Mario. Come non vedi i riccioli? Noi siamo completamente privi. Comunque stiamo. Mario, ci sei? Sì, al telefono. Ah, sono qua. Ecco, abbiamo risolto. Perché c'era un problema di collegamento, mi avevano detto. Però eccoci risolto. Quindi i riccioli ci sono. Il problema è che i riccioli non vogliono mischiarsi con due teste rase come la nostra. Questo è il punto. Bisogna preservare il patrimonio dell'umanità. Mario Seminerio e Renato Cifarelli ci raggiunge tra poco. Di che cosa parliamo oggi? Ve lo dico subito così. Decidete se volete chiamarci all'800240024. Mentre, come sempre, gli sms al 349-238-6666. E parliamo all'inizio, come sempre, punto sulla settimana, la settimana rovente in Italia, perché basta che guardate i giornali di oggi. Renzi ha già detto così non si va avanti, siamo oramai gentiloni letti al cubo a casa. E detto tutto questo, però facciamo il punto di cosa succede in Italia sui mercati con Mario Seminerio. Dopodiché, cari quotisti del 317 Banco di Credito Cooperativo Italiano, parliamo di voi oggi, perché alle assemblee intanto vengono sottoposti sempre più numerose assemblee di bilancio 2016, si inizia a scegliere a raffica a quale delle holding nazionali partecipare, quelle indicate dalla legge di riforma, e noi ci chiederemo che cosa c'è davvero dietro questo modello, questa lotta a coltello che c'è tra le due holding contrapposte, Icrea e Centrobanca. È davvero questo modello una svolta, nel senso che garantirà davvero l'accentramento della gestione dei rischi, della gestione dei servizi, cioè sarà la risposta vera al fatto che più di 100 di questi 317 in realtà hanno un Texas Ratio superiore al 100%. Lo ricordo che è il rapporto tra credito deteriorato e patrimonio netto della banca, e quindi insomma ma un bel problema. Garantirà anche la coerenza dei sistemi informativi, così da rendere efficaci e tempestivi controlli che invece di una dispersione di questo genere sono improbi e quindi comportano minore garanzie per i correntisti e per i quotisti. E soprattutto spazzerà via quella impropria intromissione e collusione con la politica locale, Oscar. Le rappresentanze d'impresa, che spero tutti coloro che hanno difeso la fondamentale importanza della banca territoriale, microcredito locale, spero abbiano capito anche loro, è stata la morte, la fine e lo schifo. Certo, con l'equivoco inaccettabile che confondeva il territorio, che invece di essere servizio alle imprese e alle famiglie, con il servizio alla politica e ai potentati locali. Quel territorio a cui vocarsi è il territorio di chi lavora e di chi vive, non di chi pensa di fare il Don Rodrigo del suo castellaccio. E quindi se e come e quando, però insomma in queste due ore volete intervenire su questo argomento qua, BCC, naturalmente prima qualche cenno lo diremo anche a che punto siamo su MPS, le due banche venete, proprio tempo, si prende tempo, perché come sempre bisogna aspettare dopo il voto, la parola d'ordine come marità, dopo il voto. Ma detto tutto questo, un altro grande blocco problematico che affronteremo è quello del disegno di legge concorrenza. Dopo due anni pare sbloccato, fiducia in Senato, deve adesso andare alla Camera, e la domanda che ci porremo è: bene, dopo due anni in cui agli annunci poi è seguito il suo giacere in Parlamento perdendo pezzi, vedremo quali. Bene, oppure in realtà è stato di fatto evirato, quindi lo approvano per questo, perché da tante vicende, da Uber al home restaurant, Airbnb, la Bitex che adesso emerge come nuovo argomento fiscale. Non scaricate il podcast delle Sconti della Belva perché vi costa una cifra, ragazzi. All'Italia e così via, come si vede. Oppure la domanda è: tutte queste vicende restano fuori, sono tutte anticoncorrenziali e significano sì, si approva un testo sostanzialmente evirato. Ecco, e qui vedremo con due punti di vista contrapposti. Oltre a questo, Mario, siccome ci sono tante altre cose, qualche altro flash di cosa che ci ha colpito questa settimana, cominciando da te, Mario? Trovo molto divertente, oggi compare sulla stampa un articolo che spiega del rinnovo del contratto di lavoro degli operatori ecologici, dei neturbini, nella sua applicazione specifica all'AMA di Roma. Ed è veramente fantastico. Facciamo un piccolo antefatto per amor di sintesi. Il rinnovo del contratto nazionale ha portato l'orario settimanale da 36 a 38 ore. A Roma, all'AMA, sono presi altri 3 mesi di tempo per valutare le esigenze della città. Hanno firmato un protocollo d'intesa in base al quale praticamente dentro, a differenza del resto d'Italia, dentro le 38 ore saranno inclusi la pausa di 10 minuti che prima si faceva a fine turno e i tempi di vestizione, doccia e svestizione. In pratica la somma di questo minutaggio vanifica le 2 ore settimanali di recupero dell'orario di lavoro. Notare che questa previsione, diciamo, di recupero di produttività e di orario di lavoro avrebbe permesso ad AMA un risparmio, un recupero di produttività di 600.000 ore di lavoro in più all'anno e notate che AMA ha 1.200.000 ore di straordinario all'anno. Tutto questo non esiste più perché, diciamo, loro signori devono fare la doccia, vestirsi e svestirsi in orario di lavoro, mantenendo il numero di ore effettive di lavoro, senza parlare, come indica l'articolo della stampa, di tutte le varie indennità, quindi l'indennità di disagio se si ha turno in un quartiere di Roma diverso da quello della propria abitazione, le indennità di presenza sul posto di lavoro, perché come notate la presenza sul posto di lavoro deve essere premiata, incentivata e quant'altro. Quindi che cosa dire? Che ovviamente AMA e il suo personale pare fossero grandi tifosi di Garagi e quindi hanno avuto la loro ricompensa dovuta, così come i tassisti, così come molte altre categorie. Noi andiamo avanti così serenamente perché il dissesto è quello che ci attende, oltre ad un cumulo di spazzatura che probabilmente è quello che è diventato il paese. Carlo Alberto. No, io devo citarti l'esplosione fiscalizzante della discussione su Google che ha transato con l'Agenzia delle Entrate, come ha fatto tempo fa Apple. E qui tutti hanno stappato, cioè, ecco, l'ammissione, ecco, gli evasori, evasori fiscali. Ma adesso vorrei ricordare a tutti e magari anche ai senatori della Repubblica che una transazione con l'Agenzia delle Entrate non ti trasforma in un evasore fiscale, ma semplicemente un accordo, magari su una intesa e nel caso specifico, per esempio, sui criteri dei prezzi di trasferimento. Tant'è vero che la gran parte della transazione è dedicata all'azienda italiana. Dico, quindi non c'entra niente il fatturato dell'azienda irlandese, non c'entra niente la richiesta che molti fanno di hai visto la proposta di Franco Gallo. Sì, purtroppo non volete, sì, non volete il fatturato, che voglio dire, la risposta no, ma dovrebbe essere una domanda della civiltà. Il fatturato giuridica è chiaro fiscale, che non è un imponibile, ma dicono volete il fatturato e allora tassiamo i bit nell'ordine di qualche milionesimo di centesimo per bit. Peccato che qualche milionesimo di centesimo per bit, caro Oscar, fa qualche centinaio di euro per ogni gigabyte, cioè per scaricare un normalissimo film si pagano 400 euro, sanno, ma manco San contare, c'è un problema con i decimali, altro che il paese dello zero virgola, il paese dello 0,00000. Tu dici che è proprio un plateale casi. Ma qui siamo alle basi della matematica, alle basi della civiltà matematica. E vabbè, ma che c'entra? Tanto quello che conta è votare presto, che cosa vuol dire? Sì, ecco, poi questa storia, scusa, adesso poi parliamo del decreto concorrenza, qui Renzi si sveglia perché c'è sta storia delle telefonate inbound, come si dice, no? Anzi, scusa, outbound rispetto ai call center, per cui adesso pensa un po', tutta questa concorrenza orrenda sul settore elettrico, la gente poverina riceverà le telefonate a casa per cambiare, che ne so, il contatore dell'Ene. Ma come si permettono di disturbare i poveri vecchi che sono contenti di essere lasciati tranquilli e di pagare di più? Allora, non è una difesa d'ufficio, per carità, sono il primo a criticare, l'ho fatto in TV, l'eccesso di invadenza e soprattutto la disonestà di qualche operatore telefonico, operatore di utility che raggira magari appunto i vecchietti. Ma da questo proibire o a fare le levate di scudi perché finalmente si introduce un po' di diritto di telemarketing in questo paese, francamente mi sembra che siamo lontanissimi. Siamo di nuovo a una cultura anticoncorrenziale populista, mi dispiace, da tutte le parti. Da tutte le parti, ma poi alla fine è la politica che, come sai, c'ha il tamburo in mano per dire agli schiavi alla galea, che siamo noi contribuenti, se bisogna rafforzare il ritmo, fermarsi oppure no. Comunque, poiché io inizio a ricevere una tonnellata di osservazioni che dicono sei diventato maniaco come Renzi, che sono tali e quali, io rispondo, inizierò a rispondere allegando le stesse osservazioni che mi venivano nel 2008, 2009, 2010, quando iniziò critica Berlusconi, dai berlusconiani. Non c'è niente di più ripetuto in questo tipo di rito di voi fan in ascolto. Ognuno può fare, fa che vuole, e il nostro mestiere però è criticare quello che non ci convince, no? Quindi se in 24 ore di fronte al voto su, ho già detto come la penso in altre trasmissioni, sulla legittima difesa, una norma che resta tutta carica di circostanze psicologiche discrezionalmente valutabili nel processo, questa è la mia, ma al di là di questo, se in poche ore vedi i giornali e dice no, quella norma non va bene, poi vede il voto, ieri l'ho spiegato ieri pomeriggio su questa questione tecnica della modifica delle norme rispetto al registro delle opposizioni sulle telefonate dai call center, ma lui non è che si mette a vedere la norma in sé, vede sui giornali che c'è molto spazio e che il significato che arriva è vi potranno rompere le scatole, e dice, come trovate oggi sui giornali, no, ma così non si va avanti un anno. È evidente che la strumentalità della politica è non approfondire il merito delle faccende. Dopodiché, cari ascoltatori, se a voi piace, fatevelo piacere, a noi non piace. Torniamo tra un minuto. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Allora, settimana per così dire viva, per così dire, ecco, per usare una perifrasi sia dal punto di vista internazionale che da quello di casa nostra. Mario, da cosa cominciamo? Ma guarda, potremmo cominciare con il fatto che abbiamo il segretario del partito di maggioranza relativa che è convinto che indice PMI indichi piccole e medie imprese anziché purchasing vabbè, manager tu index. I dettagli, hai ragione. Però, ma sì, ma lo so che io sono sempre molto pignolo, non mi pare il caso. No, ma in settimana è uscito il dato, la prima stima del PIL spagnolo del primo trimestre, che è più 0,8% e più 3% rispetto al primo trimestre 2016. Sono dei bei numeri. Loro fanno in un trimestre quello che noi facciamo a fatica in un anno, caro. Mi sì, pare, la mi movida dove sta colpa la movida degli italiani che il 4 non dicembre non hanno votato al referendum. Ah, che è colpa dell'euro, fa il bravo Oscar. Sì. Ah, no, ecco, esatto, sì, a seconda dei punti di vista. Esatto, tutto perché la Spagna non ha l'euro. Ah no, aspetta, forse mi sono perso qualcosa. È come direbbe la Marine Le Pen, vedi che gli inglesi crescono da quando sono usciti dall'euro, anche loro, esatto. È tutta gente brava. Sì, sì. Esatto, ma io ho visto anche dei giornali italiani che hanno detto che la Slovacchia sta facendo una grande performance economica perché è fuori dall'euro. Cui diciamo i nomi ma non i cognomi. Comunque no, a parte ciò è un ottimo dato, ma soprattutto alla base di tutto c'è il fatto che l'economia spagnola, il PIL, la crescita del PIL nominale è assolutamente vigorosa in Spagna, perché nel 2016 è cresciuto del 3,6%, nel 2017 si prevede possa crescere del 4,1%. E siccome per la nota regoletta, peraltro banale, secondo la quale quando la crescita del PIL nominale eccede il costo medio del debito, un paese ha sempre meno bisogno dell'avanzo primario per ridurre il rapporto debito-PIL, ma vi dirò di più, la Spagna ha un deficit primario, eppure da due anni, in due anni ha tagliato di quasi 3 punti percentuali il rapporto debito-PIL, perché il PIL nominale spagnolo cresce ben più del costo medio del debito. Allora, noi paragoniamolo con le favolose levate d'ingegno che si leggono sui giornali italiani del tipo potremmo aumentare l'IVA di 3 punti e quindi l'aumento di inflazione darebbe un botto, una tantum al rapporto debito-PIL. Quindi in attesa di mettere le goccine sotto la lingua e di prendere il premio Nobel dovremo trovare qualcos'altro. Potremmo sempre commissariare l'Istat e dettare il tasso di inflazione sulla base del DEF del governo, ti sembra una buona idea? Sì, assolutamente, assolutamente. Poi quanto riguarda l'Italia, non è macro ma è micro, avete visto la situazione di Alitalia, no? Dovevamo partire con una contingent equity di 200 milioni di Alitalia, è diventato un prestito del tesoro di 300, 400, 500, 600, chi offre di più, sì. Quindi andrà avanti molto a lungo e tra l'altro cominciano già ad apparire sui giornali i pizzini, i messaggi ai poteri forti, smorti, praticamente prossimi a morire, del tipo ma Trenitalia e Alitalia sarebbero una eccellente sinergia. Ora, siccome il nostro amico, mi permetto di chiamarlo tale per la sua simpatia umana che è inequivocabile anche se sono in dissenso dalle sue idee strategiche, Renato Mazzoncini probabilmente riceverà qualche lettera, telefonata, email, sms per mettersi una mano sul cuore e sulla coscienza. La mano sul portafoglio la mettiamo noi contribuenti italiani in casa. Se ricordate in una vita precedente quello che è successo a Poste Italiane, no? Con Alitalia, le due iniezioni di capitale, dove ci hanno praticamente rincoglioniti dicendoci che c'erano delle favolose sinergie tra Poste Italiane e Alitalia. Quindi il povero Francesco Caio è stato costretto a dire obbedisco, ma questo non gli ha permesso comunque di accumulare i punti Fragola o i punti Renzi per essere confermato capo azienda di Poste Italiane. Quindi la vita è sempre più difficile. Mazzoncini si è impegnato in questa trasmissione, alla fine finimmo la trasmissione con lui. Lui era tutto fiero a dirci riconoscetemi che su Alitalia no. Noi glielo riconosciamo ma glielo ricordiamo, caro Mazzoncini. Certo, certo. In compenso invece io insisto sulle strade, sui cieli no, ma sulla terra sì. Ma questo ci dirà alla fine che sono davvero complementari. No, in nessun paese al mondo i due business. È un'obiezione che devo respingere, caro Oscar. Va bene. Per favore. Sì. Allora, guardate, per essere chiari, Ubitosi, oltre a questa complementarità onirica con Ferrovie, ha anche aggiunto già fin dall'inizio che il prestito ponte vale 6 mesi, perché con la bacchetta magica adesso azzera tutti i costi modificando unilateralmente i contratti, hanno già iniziato, ma cosa fantastica, il mercato ha abolito per decreto, perché io a questo punto chiedo, ma se l'Eni gli diminuisce del 30% il costo del carburante, anche agli altri farà così, immagino, no? Vabbè, ma detto questo, ha aggiunto Cubitosi, poi dopo si vedrà. Allora, uno da una parte c'ha gli annunci del governo totalmente, mi dispiace, tecnicamente infondati, che dice entro 15 giorni si va alla ricognizione delle offerte. Ma se non c'avete neanche il bilancio 2016, cazzo! Poi dall'altra parte Gubitosi dice no, vabbè, per i primi 6 mesi abbiamo soldi, ma poi andiamo avanti. Ecco, questo è lo stato della comunicazione logica su questo. Scusami se ti ho interrotto, perché io sono senza parole. No, figurati. Ma la cosa che mi colpisce è che l'informazione beve tutto. Questo è il punto, beve tutto. Vabbè. No, ma Oscar, l'informazione fa da buca delle lettere, non è che beve tutto. Perché, cioè, poveretti, tutti teniamo famiglia più o meno, tutti abbiamo da pagare le bollette più o meno, e per cui si agisce. Cioè, ieri abbiamo visto questi messaggi, io sono assolutamente certo. Allora, io ieri mi sono preso la briga di guardare il CV di Gubitosi, che è eccellente, impressionante, straordinario. Non ha mai avuto un'esperienza nell'ambito del trasporto aereo, se ricordo correttamente, ma quando si sale a determinate rarefatte vette di managerialità diventano tutti generalisti. E d'altro canto io ricordo diciamo le grandissime performance che nel passaggio da Terna a Italo ha realizzato Cattaneo. Sì, che sta facendo benissimo anche dove si va, come si vede dalle trimestrali rispetto a quello che perdeva prima di lui e dopo di lui Telecom. Però guarda, poco e nulla mi toglie dalla mente che il ruolo di Gubitosi non è esclusivamente quello del tecnico tagliatore di costi. E dei tre commissari, lui è il garante di Renzi, voluto da Renzi, ed è la catena di controllo renziana. Uno, due. Poi c'è, in quanto esperto trasportistico, il professor Paleari, e poi c'è, in quanto esperto di procedure concorsuali, il 25esimo incarico di Laghi. E questa è l'attribuzione delle competenze, è questa qua. Sì, però dire, certo. Se devi mettere in liquidazione in vendita un'azienda, non fai tre commissari, onestamente. Ma infatti, cioè, non devono. Infatti, l'intenzione di Renzi è piantatela, caro Calenda e Gentiloni, e dire stupidaggini, questa roba non si risolve come dite voi, tantomeno prima delle elezioni. Questo è ma scusate, non è, cari ascoltatori, però se la vuoi, ripeto, chiamare non è una mia mania, dai, prenditi le responsabilità, ma politiche, figurati se la chiama nazionalizzazione. Però di fatto la chiamerà, scusa, grande nominato un piano consiglio paese di amministrazione sotto mentite spoglie. Di fatto hai ricapitalizzato l'azienda, di fatto hai tirato un calcio alla lattina. Stai diventando anti-renziano anche tu? Ma no, tu, no, tu sei, no, io non sono. Tu sei filo, ti ricordo che la tua parte assegnata. Ah, sì. Ah già, è vero, sì. Hai ragione. Mi sono dimenticato di mettermi il cappello di filo renziano. Noi spesso, diciamo, ci attribuiamo queste cose qua. E io vorrei sapere, ma Mario, ma tu sei del partito, siccome questa settimana è esploso anche il confronto muscolare con Brexit, si inizia ad andare sul ring, sì, insomma, no? Sì, sì. Ma tu sei della tesi che, visto che sono usciti, e adesso si illudono perché non è ancora successo niente, ma il giorno che dovessero toccare con mano, che prima escono, cioè prima si arriva al 30 marzo 2019, e solo dopo si tratta davvero con loro i rapporti commerciali, e loro li devono trattare con tutto il mondo, perché a quel punto non passano più per la WTO, e a quel punto gli effetti sul PIL sarebbero amari, secondo me. Però, senza inoltrarmi su questa previsione, la cosa che ti chiedo è, Mario, tu sei di quelli che dicono, devono pagare amaro e capire, oppure è meglio una strategia cooperativa perché ci facciamo male anche noi? Ma è sicuramente meglio una strategia cooperativa, però se c'è un bill da pagare sull'uscita, quindi diritti e doveri di natura patrimoniale relativi al trascinamento di medio-lungo termine degli impegni comunitari del Regno Unito, quei soldi vanno pagati. Adesso io ovviamente non so se sono 80 miliardi, 100 miliardi upfront, scontati, attualizzati, però diciamola tutta, due cose. Intanto credo che la May debba essere molto grata a questo leak, a questa fuga di notizie relativa alla famosa cena di mercoledì con Juncker. Ma Juncker, perché se voleva dargli una mano, ci è riuscito. Esatto, ha contribuito al vero e proprio trionfo dei conservatori nelle elezioni locali di questa settimana. Esatto. Quindi anche il fatto che la May ora strilla come un'aquila e sembra diventata italiana, nel senso che aiuto c'è lo straniero che cerca di danneggiarci, no? Fa un po' di vittimismo, che sembra veramente diventata italiana. Però questo la sta aiutando. Lei l'8 giugno trionferà. Sì. Lo UKIP è stato incenerito. Il Labour, visto che è guidato da un ubriaco politicamente, non solo, verrà incenerito. L'unico interlocutore, al di là di un ipotetico confine, sarà in Scozia, e lo sappiamo benissimo. Ma ci ho detto, cioè, poi scusami, ma io volevo fare una domanda ai nostri sovranisti alle vongole. Ma se il problema è che non c'è problema, nel senso che si può stampare questi 80-100 miliardi da pagare all'Unione Europea in sterline, ma di che si lamenta la May? Probabilmente la May non ha sufficienti consulenti alla tipografia delle sterline. Ma no, hanno mandato uno dei servizi a eseguire i corsi in una certa università abruzzese. Solo che lui non riesce a capire, ci sono dei grafici che gli sembrano un po'. No, la verità è che il tema lì è complicato veramente, perché districare gli impegni di 40 anni è veramente una secessione, e per essere pacifica una secessione veramente richiede migliaia di pagine. Secondo me ha fatto bene Juncker a mettere sul tavolo tavolo le 2000 pagine dell'accordo commerciale col Canada per far capire la complessità di questo. E questo, scusate, fa tornare sul tavolo quella responsabilità gravissima di Cameron, che ha ridotto a un sì o un no, semplificando in maniera brutale una complessità di questo genere senza rappresentare l'effettivo problema. E quindi tutti i referendum, uscire, entrare, scusate, voglio tornare diffidi dell'opinione, no, diffido del fatto che non si può, sei come Macron, il popolo non può capire 2000 pagine di contratto. Sono un grande tifoso della democrazia rappresentativa, penso che i parlamenti facciano un loro fondamentale di mediazione e di comprensione, e se non capiamo che la divisione del lavoro passa anche da quello, todo scavallero, allora se uno vale uno, ciascuno si studi le 2000 pagine. Perfetto, torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci qua, tornati in diretta, cari compari, caro Alberto e caro Mario. Vediamo di fare una riflessioncina aperta a un settore di una certa importanza sul totale del mondo bancario italiano, perché le 317 BCC, mentre continuiamo a far passare il tempo per risolvere il problema di Siena e il problema delle due venete, perché a questo proposito lasciatemi dire, l'idea che di essere stati bloccati per il referendum il 4 dicembre per 9 mesi l'anno scorso, poi di essere bloccati per le primarie, poi di tentare di non sollevare problemi prima delle elezioni, è un'idea da paese che non va da nessuna parte. Io sono convinto che la questione di Siena e delle due venete avrebbe avuto bisogno di un altro passo nella gestione del dossier con le autorità europee, perché sennò i costi continuano a crescere, la trimestrale di Siena è tornata da fin dell'orrore, quindi io la vedo così. Però detto tutto questo, c'è una fetta del mondo bancario molto rilevante, perché stiamo parlando di 317 istituti, quello del credito cooperativo, che da una delle riforme, questa volta non per decreto come avvenne per le 10 banche popolari di maggiore capitalizzazione, maggiori attivi che dovevano trasformarsi in SPA, ma con un meccanismo più lungo nel tempo e molto contrattato. Il mondo del BCC, Federcasse è stato molto più abile, diciamo, con la politica, avendo anche un certo rapportino dal basso con la politica, per così dire, ad avere tempi più lunghi. E quindi comunque bisogna scegliere quale holding capogruppo con potere di gestione, bisogna vedere quanto penetranti, io spero molto penetranti, le BCC scelgono. E rispetto a chi pensava, ma alla fine sceglieranno i CREA che esisteva da prima, offrendo servizi al sistema BCC, sorpresa, già dal 2016 si capisce che non sarà una, ma almeno due le grandi contendenti sul campo, perché Centrobanca dal nord-est dice: ma no, noi non ci riconosciamo nel modello. I CREA troppo poco attento a nord. A nord c'è una concentrazione elevatissima sul totale di questi 317. E insomma, venite con noi. E una certa lotta a coltello, perché poi di qua o di là significa per i CREA aver perso al momento già più di 100 di 317, certo, di questi istituti. I punti sono: la politica e le cose improprie spariscono dal sistema BCC, 1, 2. Patrimonialmente è messo molto male questo sistema, è inutile illudersi e piantiamola di dire vive le banchette del territorio. Allora la holding avrà potere nella gestione dei rischi, nel sistema di allarme, del credito deteriorato, nella operatività, penetranti davvero, perché se è così serve, se non è così, come molti si illudono, è un cappellino sulla testa, per così dire, è il cappellino sulla testa che non cambia le cose, secondo me non è utile al paese. Cioè bisognerebbe che questi diventassero davvero due grandi gruppi bancari italiani. Ecco. Sì, con un problema che il brand del credito cooperativo è sempre stato un brand unico, forte, con le sue cannotati, con il suo posizionamento, con la sua differenza, spesso più conclamata che effettiva, e che rischia, anzi a questo punto ormai certo, che venga spaccato, perché tu troverai paesi con una presenza del credito cooperativo diviso in due. E quindi viene diluito quel messaggio importante che ha un senso, no? Di una logica di credito non basata su criteri, fatemi dire, generali, ma su criteri molto specifici. Ora, il tema del rapporto col territorio, e di che cosa fanno a questo punto le residue banche nominalmente autonome sul territorio, ma in realtà dipende da holding, è importante. Che mestiere faranno quelli che poi guarderanno negli occhi i piccoli imprenditori, gli artigiani, le famiglie, e dovranno interloquire con loro sul credito, sul risparmio, sui servizi bancari? Ecco, questo è il problema. Quindi la domanda non è solo centralmente cosa succede alla holding, ma per la gente, per gli imprenditori, che cosa cambia nel cosa cambierà nei prossimi mesi nel rapporto con lo sportello e la banca Io sul territorio. Io ho questa impressione, Alberto. Fino a questo momento le scelte, che già moltissime hanno scelto, sono fatte su base relazionali tra due, non su base di modello, perché siccome le ho battute per anni facendo dibattiti, incontri, conosco quasi in ogni regione un po'. È inutile che io nasconda ai nostri ascoltatori che in realtà tra l'animatore della proposta di Centrobanca del Nord-Est e il sistema Azzi, che per 25 anni ha guidato quella che era l'aggregazione e la rappresentante al mondo del BCC e che sta dietro ed è l'anima, insomma, forte del progetto ICREA, alla fine sono i direttori e i manager delle BCC che fa scegliere in base ai rapporti che hanno tra le due. Io ho questa impressione, che mi preoccupa molto, a dire la verità, perché è una maniera che considero un po' impropria, a dire la verità. Di sì, cioè, se posso dire, anche soprattutto viene dal Veneto e dal Nord-Est, che ha subito parecchi shock, come puoi ben pensare. Sì. Una richiesta di attenzione, di autonomia, una richiesta di preservare certe tradizioni, io però la capisco. Un atteggiamento troppo centralista, quando hai a che fare con persone che hanno secoli di storia di autonomia, va forse mediato. In questo senso non voglio parteggiare, per me sarebbe stato molto utile avere un grande gruppo, e vediamo come Credit Agricole in Francia, no? Un unico grande gruppo. Sì, mi spiace, io sono un grande tifoso delle valenze culturali del credito cooperativo, ma anche, scusami, delle necessità funzionali, organizzative, tecnologiche. Ricordo che BCC dovrà dotarsi molto prima di un sistema informativo unico. Per adesso è solo previsto che sia integrato e interoperabile, ma molto presto tutti i dati dovranno convergere. Questo è un elemento di grande capacità di la BCE è molto importante. Infatti che sono questo, d'accordo, deve molto premere. Invece, capisci, quando c'è confusione sui numeri, prolifera l'autonomia anche non necessariamente controllata. Allora, sentiamo opinioni sul campo. Abbiamo due ospiti oggi. Abbiamo Marcello Belloli, che è vice direttore della BCC di Bergamo e Valli. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. E abbiamo un banchiere che definisco esattamente come lui si definisce nella testata online a cui partecipa, perché si è definito banchiere cannibale, perché è appunto un banchiere, perché critica spesso le gestioni e i criteri e quindi, per così dire, si trova a dover mangiare, anche a cibarsi dei suoi colleghi, per questo il cannibale. Trovate i suoi iscritti su www.pianoinclinato.it e grazie anche a lui di essere con noi. Buongiorno Giannino, saluti ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Allora, nei suoi due bei pezzi, andate veramente, perché sono i pezzi che io ho trovato più divertenti, ricchi di spunti e anche scritti con una penna tagliente sul processo di consolidamento che è in atto. Lei un po' condivide la mia impressione, mi pare di capire, che il consolidamento sia guidato da logiche molto personalistiche di relazione piuttosto che di modello. Però cominciamo dal modello. Avrà ragione secondo lei Carlo Alberto, che spera che sia una gestione il più possibile davvero efficientista, quindi dai protocolli operativi, dalle procedure di cliente, gestione rischi ex ante ex post, come monitorare l'evoluzione dei diversi stadi fino ad arrivare al deteriorato e così via. Carlo Alberto ha in mente che nasce un vero gruppo integrato, cioè la holding, ho in mente il Credit Agricole, grande banca con deleghe chiare e precise, chi sta sul territorio. Io temo di no. Che dice banchiere cannibale? Allora, è quello che tutti si augurano, a dire la verità, però devo già dare una brutta notizia iniziale, e che confuta una cosa che ha detto prima il professor Carnevale Maffè. La BCE aveva puntato sul sistema informatico integrato e unico per tutte, però le linee guida date a novembre dalla Banca d'Italia hanno tolto questa necessità. È già questo, non voglio dire che dice tutto. Lo so bene, caro Cannibale, lo so bene. E infatti si va verso un modello interoperabile, ma che dovrà, guarda, quelli non mollano Francoforte, dovrà diventare... Comunque, tema giustissimo, figurati, mi è chiarissimo e hai ragione a me pare che sia BCC rispetto alle banche popolari è quello che si batte molto meglio di tutti per garantirsi i suoi spazi con la politica regolatore. Io la penso un po' così, però... Sicuramente, comunque la situazione è molto fluida, adesso si sta raggiungendo il punto del culmine di tutta la vicenda, perché qua a maggio sono le assemblee dei soci che devono ratificare alcune delle preadesioni al gruppo bancario cooperativo e poi ritengo seguirà un calo di attenzione anche da parte di tutti i media, perché proseguiranno i lavori tecnici dei tavoli, dei gruppi di lavoro che stanno lavorando a questi patti di coesione. Ricordo che a fine gennaio Cassa Centrale Banca e ICREA hanno confermato a Banca d'Italia la loro intenzione di costituirsi come holding in questo gruppo, e a febbraio ICREA e in un convegno a Milano sembra di ricordare a fine marzo Cassa Centrale Banche hanno presentato i propri gruppi di lavoro che stanno lavorando appunto ai dettagli di questi. Ma questo patto di coesione è importante perché va a capire anche chi ricopre gli eventuali ammanchi di copertura che ci sono. C'è un gap di coperture sui crediti anomali, coperture sofferenze, c'è un gap in generale patrimoniale importante, specialmente per quelli che scegliono di non entrare nel gruppo ICREA Federcasse. Dico bene, Cannibale? Sì, assolutamente. Il patto di coesione è il contratto che poi alla fine gestirà al 100% i rapporti fra la holding e le singole BCC, ed è qui che si gioca la grande partita. Anche perché c'è 1.200.000 soci che potrebbe essere chiamato a colmare questo gap, dico bene? Sì, è destinato a colmarlo nel senso che ci sarà una necessità di ricapitalizzazione. Ricordo che ICREA ha già un patrimonio che supera il miliardo previsto dalla riforma e Cassa Centrale Banche è riuscita con fare un bel aumento la revisione a fare anche un bel lavoro, soprattutto perché il tempo incalza e di fatto, guardiamoci bene negli occhi, Cassa Centrale Banche è come una startup. È vero, esiste da diversi anni, è vero, fornisce già a 170 crediti cooperativi fra Trentino e Nord-Est i suoi servizi integrati. Di fatto fa un lavoro simile a quello di ICREA, però con una struttura ancora giovane. Deve crescere, deve con questi gruppi di lavoro determinare, decidere l'organizzazione, la struttura di questa nuova holding, e soprattutto dovete farsi delle competenze. Esatto, competenze, e fammi dire anche i requisiti patrimoniali che verranno richiesti dalla BCE non li sappiamo ancora, perché dipenderà da che tipo di valutazione fanno dei patti di coesione e del bilancio integrato. Sai, i requisiti della legge sono minimi, quelli della BCE sono mandatori, e quindi non lo sappiamo ancora se sarà necessario. C'è la capacità di accedere al mercato dei capitali e colmare questo gap che si dovesse aprire in futuro? A livello di capogruppo sì, dovrebbe essere proprio quello lo scopo della riforma, cioè creare un limite dimensionale minimo del gruppo bancario cooperativo che gli permetta appunto il salto di qualità, sia a livello di tesoreria in pooling per le banche aderenti, ma sia anche a livello di finanziamento interbancario e rifinanziamento centrale presso l'istituto di emissione. Questo è una parte della riforma e anche ciò a cui punta la riforma stessa. Non è semplicemente consolidare il settore, ma è rafforzarlo. E soprattutto specializzazione organizzativa. E qui dobbiamo capire cosa succede invece sul territorio. Lo chiameremo a Marcello Belloni, perché chi invece rimane sul territorio a presidiare i rapporti con il mercato deve capire che leve ha e che ruolo ha sul fronte relazionale, perché questa divisione dei compiti centro e periferia è essenziale nell'equilibrio. Un minuto, torniamo. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla base. della belva. Allora, Icrea o CCB lotta a coltello per aggiudicarsi il maggior numero, ognuno nelle due holding del 317 BCC, oltre 100 delle quali hanno però troppo credito deteriorato, pochissimo patrimonio. Stiamo parlando, dal punto di vista per i quotisti, ovviamente stiamo parlando di titoli liquidi, come ovvio, stiamo parlando quindi di problemi accentrati di bassa efficienza, anomalie nel senso di disomogenea operatività. Tutto questo, quanto le holding avranno davvero poteri penetranti, tanto da fargli pensare come un gruppo bancario unico, quanto saranno chiari i criteri mutualistici di intervento per il risanamento e i salvataggi? Certo. Io ricordo a voi due, cioè a Carlo Alberto e al nostro banchiere Cannibale, che in realtà le dimissioni di Azzi siamo arrivati proprio per accuse, sui giornali rimbalzati pochissimo, ma insomma nel mondo delle BCC invece contrapposte in maniera ferocemente per l'utilizzo che era stato fatto di un bel pacco così di milioni per i salvataggi in maniera troppo discrezionale, per amici degli amici, è vero o no, Cannibale? Sì, Azzi è stata una delle teste che è rotolata. In verità, secondo me, il vero bersaglio è il presidente del fondo, che ricordiamo è Augusto Dell'Erba, che non a caso è poi diventato il sostituto di Azzi come presidente di Federcasse. Sì, è rimasto in piedi. Quindi, alla fine, anche per magari anticipare la domanda del professor Carnevale Maffè, a me sembra che la riforma non stia riuscendo bene a tagliare questo cordone, esatto, fra conflittualità di interessi, notabiliati, tutte le ragioni che rendono non efficientemente allocato il credito, non in tutte per l'amor di Dio, ma in alcune BCC. Un centinaio sono quelle, come lei ricordava, che hanno questo famoso Texas Ratio, il rapporto fra crediti deteriorati e patrimonio netto tangibile superiore a 100, che per gli ascoltatori che non lo sapessero, rozzamente vorrebbe dire se che il credito deteriorato va tutto in malora, quindi non è recuperabile nulla, teoricamente il patrimonio netto della banca si azzera, e tanto più alto è questo rapporto, tanto più ne andranno a soffrire poi coloro che non sono soci, ma sono obbligazionisti e depositanti delle singole BCC. Un terzo delle BCC hanno un rapporto superiore al 100%, e con questo credo che abbiamo detto tutto sulle fragilità del sistema. E infatti è in corso anche un... Vediamo quanto sarà efficace, o quanto la Banca d'Italia presterà un orecchio, per così dire, compiacente. Però al fatto la vita di tutti i giorni cambia invece a livello locale. Qui devo tirare in ballo Marcello Belloli, che ha fatto un lavoro importante nella zona di Bergamo, ha presidiato e governato e indirizzato. Ma loro hanno già scelto? Loro hanno già scelto, facciamo dire da Marcello, ma hanno già scelto di procedere a un'aggregazione locale, cosa che è successa in questi anni a molte BCC per preparare preaggregazioni locali che rafforzassero e ripulissero l'organizzazione. E adesso si prepara al grande salto, che però non è soltanto un tema di quello che succede al centro, ma di quello che succede in periferia, alla valle, alla città. Sentiamo cosa dice Marcello Belloli sulle sfide che attendono chi sta poi davanti agli occhi degli imprenditori e dei clienti tutti i giorni. Sì, buongiorno. Allora, diciamo che il tema dei controlli, anche se non direttamente impattante sull'operatività, diciamo, con i clienti, è un elemento che sta a cuore. Sta a cuore perché l'aspetto reputazionale delle banche in generale, del credito cooperativo, è un valore che deve essere tutelato, va difeso, va comunicato e va difeso. Esatto, io sono molto ottimista, nonostante quello che si dice, rispetto all'evoluzione possibile, perché dobbiamo considerare due elementi sotto questo profilo. Il primo è che c'è un occhio molto attento della vigilanza europea. Non dimentichiamoci che delle tre cose richieste per la riforma, diciamo, all'interno del completamento dell'unione bancaria, che poi è esitata nella riforma, è stato il miglioramento della governance. Il secondo è il fatto della solidità dell'obbligazione in solido di tutte le banche, cioè tutte le banche rispondono con il proprio patrimonio di tutto il sistema, e quindi diciamo non ci sarà solo un controllante, ma il controllante opera per delega, cioè l'elemento a mio avviso valoriale del patto di coesione è che è un mandato di responsabilità importante di garanzia di stabilità per conto delle N banche aderenti, cioè ogni banca rischia il proprio patrimonio il anche solido, per la gestione certo. di altri, e quindi diventa un pochettino più complicato rispetto a prima, dove diciamo questo tipo di meccanismo non era formalizzato, non era presente, quindi il controllo ha un elemento, ha un occhio diciamo della vigilanza e un occhio interno. Ma cosa cambia per le piccole e medie imprese che dovranno cercare in voi l'attenzione che spesso nelle grandi banche non trovano più per ragioni di rubinetti chiusi o di vincoli patrimoniali? Cosa cambia per i clienti, Marcello? Ma a mio avviso cambia molto, nel senso che innanzitutto uno degli elementi chiave è la semplificazione delle filiere, la centralizzazione di attività non operative. Non dimentichiamo che noi oggi abbiamo una struttura di costo estremamente pesante, abbiamo risorse distratte dall'attività con la clientela che servono per attività amministrative, attività di controllo, e il fatto di andare a realizzare un gruppo unico, efficiente, in grado di semplificare la filiera è un forte elemento di liberazione di risorse, di aumento dell'autofinanziamento a rafforzamento del patrimonio, e questo è un elemento importante. Quindi alleggerite le risorse diciamo che lavorano sul territorio e che possono concentrarsi a questo punto sul cliente e sul mercato e non devono fare compliance, bilanci, verifiche, sorveglianza. Esattamente. Diciamo che anche le numerose duplicazioni che esistono con una struttura di N banche chiaramente vengono ad essere incise in modo rilevante. Ma per quello che riguarda il credito in particolare mi sta a cuore, perché senza una politica del credito lucida e attenta anche a comprendere i fabbisogni delle piccole e medie imprese, che non sempre sono in grado di farsi comprendere diciamo dalle logiche di credito dei grandi gruppi, cosa cambia per loro? Ma allora, a mio avviso cambia questo. Noi diciamo sul credito cooperativo si è sempre detto molto che il credito territoriale è concentrato, non diversifica, non è internazionale. Il punto credo che è quanto è globalizzata, internazionale, è nelle filiere globali la nostra impresa, l'impresa affidata, cioè in quelle filiere di innovazione, di tecnologia, di alte competenze. Il fatto di essere in un gruppo dimensionato, in grado di investire, consente di unire la dimensione territoriale, perché la valorizzazione territoriale è proprio quella della vicinanza, cioè si parla in marketing, si parla di touch point, di punto di contatto, cioè pensiamo a come è strutturato il nostro sistema imprenditoriale. Cioè, noi abbiamo l'1,6% contato male di imprese oltre 50 dipendenti, e c'è un 12% circa dei 10-50, cioè c'è tutto un insieme numeroso di imprese che richiede di essere accompagnato in progetti che le vedono impegnate nelle stesse sfide di innovazione, di rafforzamento anche manageriale, di accesso al mercato dei capitali, e questa è la sfida che si deve porre. E quindi non solo credito ma anche servizio, anche ascolto, anche supporto. C'è un lavoro di supplenza che magari nel territorio il piccolo commercialista non sa fare e toccherà fare a voi? Ma allora diciamo che gestire fisco, paga e contributi è una sfida improba per tutti, credo, quindi è ovvio che chi assiste le imprese e ha una connotazione di questo tipo, la dinamica aziendalistica, la dinamica finanziaria a volte non è il punto centrale, ma non è neanche il punto centrale del rapporto, dell'accordo. Ma invece bisogna che lo diventi, io devo richiamarvi al rispetto dei tempi. Io dico subito che prima di parlare del nuovo rapporto eccetera eccetera, io voglio capire bene alcuni capisaldi di trasparenza, come funziona. Se le risorse che la BCC si vantava sempre di tutte le banche che finanziavano lo strumento cooperativo delle soluzioni alla crisi rimangono finanziate in quel modo, ma poi i controlli li fa uno dei due gruppi cooperativi, come si utilizzano anche i fondi delle altre banche? A me ci sono troppe cose che non mi tornano. Vedremo nei prossimi mesi come queste cose vengono disciplinate, altrimenti punto interrogativo. Grazie intanto ai nostri due ospiti. Il segnale orario vi è offerto da Pantera di Infracom, è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. dibidi dobidi dab. Anche Radio 24 è in digital radio. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci tornati qua in studio con i compagni dei conti da Belva. In studio c'è Carlo Alberto Carnevale Maffè e Mario Seminario, sempre collegato con noi. Mario, ma tu di questa cosa delle BCC cosa pensi? Che sia più importante la rivoluzione tecnologica di cui parla Carlo Alberto, o invece la trasparenza, che è un po' la cosa che preoccupa molto me? Ma io democristianamente direi entrambe le cose. Bravo, sì, mi piace, bravo Mario. Perché no, ma non vedo grandi alternative. Diciamo, l'intervento di consolidamento, forse siamo tutti d'accordo che era necessario. Non fosse altro che per la fragilità intrinseca al settore, che ne dicano tutti i notabili locali sdegnati per questa sorta di violazione della loro sovranità, perché questo è il paese dei piccoli sovrani, diciamo, con i piedi d'argilla. Però, diciamo, al di là della trasparenza, al di là dei campanilismi patologici, non avere un sistema informatico e reti di comunicazione che facciano dialogare il sistema, mi sembra che faccia partire tutto e tutti con il piede sbagliato. Io temo che mentre noi ci divertiamo a dire che le Landesbanken tedesche hanno... Non hai idea quante SMS ti scrivono, e allora in Germania le Landesbanken... c'è uno che mi scrive: l'accorpamento incostituzionale risponde solo agli interessi delle grandi multinazionali, sì, vabbè, della finanza, vabbè. E allora le Landesbanken... Vabbè, comunque, mentre loro stanno in piedi con strutture consortili, ma anche con delle strutture che sono un po' meno patologiche delle nostre... Sì, un po' meno, non che siano perfettamente sane, diciamo che lì bella collusione c'è anche lì. Ma sono politicizzate anche loro, esatto. Così come erano politicizzate le casse di risparmio spagnole, e l'esito lì si è visto, è sempre un problema di quantum tra la fisiologia e la patologia della politicizzazione. Noi stiamo nell'ambito patologico di quello spettro, non ci vuole una laurea in antropologia per capirlo. Va bene, non quindi, tutte per fortuna, ma diciamo adesso speriamo di venire al... Comunque dovremo tornare sul tema, perché è una battaglia lunga. Io ripeto, sono un po' preoccupato del regolatore italiano, perché tende un po' troppo ad ascoltare le voci di chi dice: no vabbè, ma mica dovremmo essere davvero un gruppo bancario. No, su, ma dai, lasciateci no, tutti le procedure, cosa fanno le nella reti vita, e così via. No, ma non è solo per questo, è che c'è un sistema. Lo avremmo capito, no, che quanti ex dirigenti anche di Banca d'Italia stavano nelle banche Veneto. No, io lo dico brutalmente, lo so che Banca Italia non sono molto popolare nel dirlo, ma non è colpa mia, bastava non andarci, bastava farli bene il proprio mestiere, è tutto qui. Detto questo, sentiamo qualche ascoltatore. Massimo da Siena. Massimo, prego. Buongiorno. Io credo intanto che dire che le banche sono politicizzate è un luogo comune. Perché la politica... Detto da Siena, Massimo, direi che è importante affermarlo, Sì, siamo d'accordo, però il problema non è la politica, il problema sono i delinquenti che operano in maniera scorretta, e in questo paese i delinquenti non pagano mai. Se lei cambia nome, ma diciamo la stessa cosa, sono d'accordo. Però, perché... Diciamo la stessa cosa, però non si può parlare di politica in senso lato, perché la politica non è sporca, sono sporchi i politici, ma non è la stessa cosa. Però lì nella zona del Chianti succedendo qualcosa, o sbagliamo? Nella cosa del Chianti sta succedendo che la politica, quella poco pulita, sta cercando di mettere le mani su una banca che era legata al territorio, che faceva utili fino a qualche anno fa, e che ha mantenuto il sistema economico del territorio anche durante il disastro di che banca parlo? Chianti Banca? Parlo di Chianti Banca, dove c'è un ex dirigente della Banca Centrale Europea vuole mettere le mani sul nuovo gruppo che si sta costituendo, cercando di accreditarsi come uomo di Banca Italia. Ha detto ieri in una riunione che gli ispettori di Banca Italia avevano confidato alcune cose in amicizia. Io ho detto: in amicizia non si confida niente. E Chianti Banca ha in questo momento in corsa due cordate per il controllo, questo signore che si ritiene un grande economista dice che le due cordate sono deleterie per la banca. Io credo che la politica... Ma i dirigenti andati a casa, secondo lei, sono andati a casa perché c'è una manovra politica o perché non avevano amministrato bene? No, non sono andati a casa perché la Banca d'Italia ha bocciato le loro scelte che avevano fatto per quanto riguardava il pagamento di quanto dovevano sui crediti deteriorati. Un dirigente serio, quando la sua impostazione viene bocciata, va a casa. L'attuale presidente avrebbe avuto l'onestà di dimettersi insieme a loro, perché quando è diventato presidente quei crediti c'erano già, quel bilancio c'era già e quei dirigenti l'hanno votato presidente, mentre lui si è posto come salvatore della patria. Non è il salvatore della patria, e noi soci non vogliamo. No, lei non è che però può, Massimo, parlare a nome della banca, appunto. Lei parla a nome di una di quelle due cordate. Esatto, comunque, punto di vista gliel'abbiamo fatto esprimere, e ovviamente con l'avviso che è il punto di vista di una delle due cordate. Detto tutto questo, legittimissime opinioni. Sentiamo Pasquale da Taranto. Pasquale. Buongiorno dottor Giannino. No, niente dottore, qui ci abbiamo solo il professor Carlo Alberto. Finalmente la posso sentire, poi magari se la redazione le dà il mio regalo. Benissimo, però intanto andiamo al punto. Taranto, come va? Come vanno gli interventi pubblici da Ilva? Allora, Ilva, parliamo dell'Ilva. Uno dei commissari Laghi, dottor Laghi, ecco, benissimo. Ecco, quindi mi sembra veramente una presa per i fondelli. Ilva in amministrazione straordinaria. Io sono un'azienda dell'indotto che ho crediti verso Ilva di 1,5 milioni che non so se e mai prenderò, perché non hanno dato la prededuzione su nulla. Quindi questi grossi personaggi sono arrivati sul territorio. Ma come? È la prima cosa che ha detto il ministro Calenda, che i 600 milioni di prestito ponte sono in prededuzione. Lo dicesse a me il ministro Calenda. Togliamoci le maschere, smettiamola di prenderci per in giro. Hanno preso un'azienda patrimonializzata, l'hanno ridotta sull'astrico, e non solo l'azienda Ilva, ma tutto il tessuto imprenditoriale locale. Non lo dica il noi. Sottoscritto aveva un'esposizione verso Unicredit, dove il dottor Laghi è un consigliere d'amministrazione, esatto, per fatture anticipate Ilva. Io ho scritto una mail al dottor Laghi dicendo: posso un attimo rateizzare quella mia esposizione dei crediti Ilva? Che non mi è stato risposto, anzi sono stato messo a rientro. Però, ho dovuto portare come altri ovvio, 384 mila euro. Mica è lo Stato lei. Gli ordini miei non li ha firmato la famiglia Riva. I commissari di governo commissari mi hanno autorizzato a fare dei lavori. Però sulla vicenda Ilva anche dovremmo tornare. In quel caso, ripeto, i privati facevano utili a tonnellate e reinvestivano a tonnellate. Invece lo Stato, in questo caso devo dire la giustizia. Esatto. Lo straripare rispetto alle competenze del codice. Abbiamo costruito una successiva area concentrica di competenze prima non attribuita nella fase delle indagini preliminari alle procure sui beni, le strutture, il capitale, la finanza e il patrimonio dell'impresa, dei suoi soci e anche esterni al perimetro dell'azienda stessa, ma di quei soci. Quindi abbiamo fatto così, il risultato è questo. Quindi è un'impresa che andava male quando la gestiva lo Stato, perché abbiamo perso la bellezza di tonnellate e miliardi di euro con la siderurgia pubblica, i privati facevano gli utili, l'abbiamo distrutta e ripubblicizzata con la mano di pubblica, ma adesso vedremo in Alitalia. Sono d'accordo con lei però sul fatto che Laghi abbia troppi incarichi, quei 24 incarichi non si possono svolgere bene contemporaneamente. Ma cari amici, adesso dobbiamo girare pagina e porci un problema: si è sbloccata la legge della concorrenza, è stata evirata è stata evirata, come si vede appunto dalla vicenda come Alitalia, Uber eccetera eccetera, o comunque bene così, o forse è il caso di ripensarci, perché queste leggi omnibus alla fine si incagliano, vengono evirate e diventano in nulla, e tanto vale andare sulla via di progetti su ogni singolo aspetto. Dopo un minuto torniamo con gli ospiti su questo. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Allora, sbloccato con un voto di fiducia al Senato e adesso arriva alla Camera dopo due anni, disegno di legge concorrenza, ha perso molti pezzi, fascia C dei farmaci non va nelle parafarmacie, gli avvocati si sono battuti e hanno vinto contro l'eccesso, l'eccessivo ruolo iniziale all'assessore originale della società di capitale, i notai hanno stravinto levando le eccezioni al loro diritto di monopolio su compravendite che erano poi di atti minimali rispetto alla storia stato, ma comunque hanno vinto. Taxi e Uber se taxi ne riparla e Uber con sono a parte, e anzi i sindacati dei taxi questa settimana sono scandalizzati, hanno attaccato violentemente l'antitrust perché dice si batte per una multinazionale, no, si batte per una concorrenza, antitrust dà parere sulla materia da anni. Però la domanda diventa, insomma, sì, è vero, restano punti importanti nel disegno di legge concorrenza, non lo so, gli sconti sulle polizze auto per chi accetta l'ispezione del veicolo, tanto per dirne no, la liberalizzazione del mercato elettrico è una cosa importante, ecco, perché diciamo volta una pagina definitiva, questo sì, bisogna dirlo. Però non è un decreto, non è un disegno di legge concorrenza, è un patchwork, non è neanche la lenzuolata bersaniana. Scusate, chiediamo ai nostri due ospiti e poi dopo alla fine diciamo noi, meglio la legge omnibus che viene smontata e offre la possibilità a tutte le lobby di smontarla, o dopo anni abbiamo imparato che questa legge sulla concorrenza, che ci sembrava la svolta, in realtà non lo è, e meglio puntare a provvedimenti ad hoc che forse hanno qualche possibilità in più di fare qualche ragionamento organico, perché altrimenti si resta esposti come una frutta sui banchi di un mercato per troppi mesi e alla fine la frutta diventa cattiva, come è evidente. Allora abbiamo due ospiti, dei quali uno ho sentito un intervento che ha fatto in aula critico, che mi è molto piaciuto perché seguo questo politico da anni, da punti di vista diversi, però mi piace l'approccio e anche in quel caso le osservazioni critiche che gli ho sentito fare erano critiche, non erano, però erano argomentate, mi è piaciuto il modo oltretutto in cui tratta anche la questione dei taxi, NCC, Uber con una riflessione organica, complessiva, non con bianco e nero, perché queste sono questioni che chi ha amministrato sa che sono per me un pochino più complessi. E quindi il primo dei nostri ospiti è Walter Tocci, senatore del PD. Buona giornata e grazie di essere con noi in questo sabato mattina, senatore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito. E poi Andrea Mazziotti, deputato dei Civici e Innovatori, diciamo uno di quelli sicuro non sospettabili di avere troppi dubbi sulla concorrenza per come si batte in Parlamento. Grazie anche Andrea Mazziotti. Grazie a voi, buongiorno. Possiamo sentire da Walter Tocci all'inizio perché secondo lei l'esperienza ci ha un po' insegnato che provvedimenti omnibus di questo tipo hanno più difetti che vantaggi? Ma fa parte di questa legislazione degli ultimi tempi, una legislazione che è ridotta sostanzialmente a dei contenitori con un insieme di norme eterogenee, disparate, spesso frammentate. È un'esperienza secondo me disastrosa, non solo quella sulla concorrenza, ma tutte le leggi omnibus, che poi ormai sono le uniche leggi che si approvano. Queste norme frammentate rendono intanto l'iter parlamentare molto complesso, perché è una continua trattazione su tutti i tavoli, ma poi una volta approvate sono sempre norme appunto disorganiche, tant'è vero che hanno bisogno sempre di essere modificate e aggiornate. La legge sulla concorrenza sono 10 anni che si approva, ma se andiamo a vedere, io non ho fatto tempo a fare una statistica, ma così a occhio gli argomenti sono sempre gli stessi, cioè le farmacie, i servizi bancari, i telefonici, la distribuzione dell'energia e così via. Perché sono sempre gli stessi? Proprio perché non c'è stata mai una soluzione organica e quindi ogni anno si ritocca questo o quell'argomento, anche cose buone come è stato qui detto, insomma, soprattutto la parte elettrica credo sia un passo avanti. Però questa frammentazione normativa poi produce anche in sede diciamo attuativa una grande confusione. Oggi diventa difficile per un operatore economico, per un cittadino, capire quali sono le norme, perché ogni argomento viene trattato praticamente tutti gli anni e questo rende la legge deve essere chiara, semplice, insomma. Quindi secondo me bisognerebbe eliminare tutte le leggi omnibus, a cominciare dalla legge di stabilità, che dovrebbe è un modo di legiferare. Noi sostanzialmente il Parlamento italiano non approva più la legge, intesa come un provvedimento organico che regola l'intero settore. Approva soltanto questi salsicciotti riempiti di cose più eterogenee. Ecco, a me questa, cari ascoltatori, questa osservazione del senatore Tocci mi sembra fondatissima. Cioè, il cantiere di manutenzione orizzontale, trasversale, della concorrenza annuale, a me pare fallito come schema. Mentre invece a quel punto l'analisi verticale può avere più efficacia. E quanto alla legge di stabilità, idem, la legge di stabilità dovrebbe essere concepita, la legge di bilancia, come i saldi invalicabili a quel punto, i saldi per l'anno, non le misure annuali di aggiornamento tra il tendenziale e quanto c'è nella tabella invece di programmatico, che diventa la legislazione trasversale su ogni materia toccata dalle competenze. Caro Oscar, però io fammi dissentire, perché secondo me non è il metodo che è sbagliato, qui è l'interpretazione che le danno i parlamentari italiani, che è strumentale. Cioè, la legge sulla concorrenza ha il senso di dire: recepisco quello che mi dice l'antitrust, autorità suprema è indipendente per la tutela del mercato. In teoria non è così. Beh, la teoria non deve coincidere con la pratica, caro Oscar. È non in pratica coincide che non con funziona. La pratica, però, altrimenti mi fai so un'osservazione bene. Da professore. No, la devo fare perché invece perché? Per me le leggi di bilancio e le leggi della concorrenza devono essere un atto periodico, un impegno permanente ma del Parlamento. Ma anch'io ero di questa idea. E no, io devo ribadirla ma invece. Ma tu puoi ribadirla, però cerchiamo di non perdere tempo. Quello che non puoi fare è far finta di non vedere che nella prassi non è così. Sì, sì, no, lo vedo perfettamente. Capito, quello... Perché altrimenti sono d'accordo il professore e mi iscrivo al corso. Ma davvero, se non è un'obiezione per riderci, è che nella pratica non è così. Se nella pratica non è così, il politico deve avere il realismo. Allora, c'è il realismo in quello che ci dice Walter Tocci su questo. Che dice Andrea Mazziotti? Ma dico che evidentemente in quello che dice il senatore Tocci, che su un aspetto è ottimista, perché diceva la legge sulla concorrenza si fa da anni, in realtà questa è la prima, perché si doveva fare dal 2009, non è mai stata bloccata una, se non il decreto legge. Ma si è bloccato per questo però, si è bloccato per questo, perché tra governi che non vogliono rompere le scatole su alcuni punti e tra la trasversalità di chi, come succede in questo disegno di legge, riesce a levare i pezzi con la lunga e sfinente trattativa, e alla fine ecco qua. Sì, sì, ma allora, se dobbiamo dire che è riuscito l'esperimento, non è che l'esperimento sia riuscito benissimo, perché ovviamente ci sono state una serie di marce indietro, rinunce, eccetera. Però se io guardo alla mia esperienza di parlamentare di questi anni, di norme di liberalizzazione diverse da queste non è passata quasi nessuna. Allora, tornando all'esercizio di realismo, la verità è che è molto difficile intervenire per liberalizzare in un mercato dove tutti i parlamentari e tutti i partiti vedono la concorrenza o quasi come un problema. Finché sono partiti tradizionalmente di impostazione statalista va bene, tutti i partiti di centrodestra parlano di liberismo, ma poi il loro principale punto di riferimento è tutelare la concessione delle licenze dei tassisti, le concessioni dei balneari piuttosto che altre situazioni di questo tipo, per non parlare di banche e assicurazioni. Il risultato è che gli interventi non ci sono. Qui non ci sono degli interventi, a parte l'energia, che è un intervento secondo me importante, diciamo con una dilazione un po' lunga, ma che si giustifica con le preoccupazioni sugli effetti sui prezzi, ma comunque un intervento fondamentale. Ci sono una serie di altri interventi positivi, penso alla liberalizzazione che sulle farmacie è stata fatta, penso agli avvocati, penso alle norme sui mutui e la trasparenza. Ci sono una serie di norme utili. Quindi tu dici meglio così che altrimenti rinunciare, perché rinunciare è un passo in più. Che niente, certo. Non è che si impedisca di fare riforme organiche perché c'è la riforma della concorrenza. La dimostrazione però è che quando si è stata fatta la legge forense su questa roba, sulle questioni che stanno, io sono avvocato, quindi che riguardano le liberalizzazioni per gli avvocati, non è stato fatto quasi niente. Se oggi un avvocato può fare una società con un commercialista o potrà fare una società con un commercialista, che dovrebbe essere intuitivo e non lesivo dell'onorabilità della categoria, è grazie a un emendamento peraltro del sottoscritto, che grazie a Dio vero, è finito questa legge, se no non sapevo dove metterlo. Vero. Tocci, Mazziotti dice però qui il vero problema è che tutti hanno fatto un passo indietro. Liberalizzazioni oggi è molto più facile eccitare la pancia piuttosto che la testa della gente, sinistra come destra, e quindi non è diventata più una grande priorità, da che la sinistra per prima, Renzi, Valtteri, Bersani e così via, scavalcò la destra dicendo no, i diritti del consumatore cittadino sono una frontiera da regolare, certo non da sposare per ideologia, ma da regolare, eccetera. C'è del fondamento in quello che dice Mazziotti, però non c'è dubbio, siamo tutti d'accordo su questo, e e soprattutto sulla priorità di una politica di liberalizzazione. Qui stiamo discutendo sullo strumento, sì. Questo strumento molto frammentato, secondo me, prima di tutto un mercato è di per sé un sistema normativo stabile. Se cambia ogni anno, anche se sono dei miglioramenti, e non sempre lo sono, comunque crea un'incertezza che non può determinare poi uno spazio per la concorrenza, per l'intrapresa. Il ruolo dell'antitrust però è centrale in questo costrutto, perché se non si dà retta a quello che l'antitrust rileva con la sua indagine, capite che poi non puoi recepirlo nelle leggi. Quindi, siccome i mercati sono dinamici, bisogna ascoltare. Il dialogo tra antitrust e Parlamento è fondamento di questo, Tocci. Certo, sì, però facciamo una riforma sulle farmacie e poi se ne riparla fra 20 anni, cioè non si può fare ogni anno una riforma sulle farmacie. Poi anche sull'antitrust io sono d'accordissimo con te sull'esigenza di recepire, però bisogna recepire anche in modo organico, cioè l'antitrust fa delle osservazioni che sono molto puntuali. Vi faccio l'esempio dei taxi, no? Ma lì bisogna inventare un nuovo mercato della mobilità, non si tratta semplicemente di agire sulla norma del 92, bravo, bravo a dirlo. L'antitrust prende. E a cosa servono i legislatori? No, devo dire che Tocci la proposta ce l'ha. Un nuovo mercato, cioè bisogna, cioè, in sostanza, qual è il problema? Che c'è una fascia intermedia tra il taxi e il servizio di trasporto pubblico, che è una fascia intermedia enorme. Che quello può creare un mercato della, esatto, mobilità. Assolutamente. Prima non si poteva un mercato fare, che cresce, che sostituisce il traffico privato, ma che ha bisogno di un quadro normativo, esatto, chiaro. Certo, ma l'antitrust, certo, e l'autorità dei trasporti ha fatto tanto lavoro su questo. Perché, sì, avete rinviato tutto alle calende greche e magari dopo elezioni? No, ma l'antitrust, guarda, io sono un estimatore dell'antitrust e dell'autorità dei trasporti, però se tu vedi i loro pareri, sono emendamenti alla legge del 92. Benissimo, che va bene, io sto preparando un disegno di legge in cui li recepisco in toto, ma oltre a questo bisogna creare un nuovo mercato e quindi ci vuole una costruzione, una policy organica con una normativa che sia presentata di fronte all'opinione pubblica. Bene, in modo, bene. Allora vedremo, intanto adesso rapidissimo giro, Mario, secondo te la legge della concorrenza ha ancora senso dopo questa esperienza di questi 2 anni di pezzi che ha perso oppure no? No, ma ha dimostrato proprio il fatto che non si sia mai giunti a realizzare sulla cadenza che si era concepita inizialmente uno straccio di legge sulla concorrenza. Cioè, non è mai uscito nulla di sostanziale, di volta in volta si accumulano i disegni di legge di iniziative dove però gli interessi di parte e settoriali hanno un enorme potere di interdizione. Il provvedimento cresce, si paralizza, non si va più da nessuna parte e poi si vedono delle iniziative estemporanee magari per difendere la Fininvest Mediaset di turno, scusate la polemica. O per ostacolare, diciamo, la Flixbus di turno da parte di Confedus. Esatto, esatto, per cui alla fine, io ne avevo scritto tempo addietro, diventa il disegno di legge anticoncorrenza dove tutte le pulsioni si contro scatenano. Il liberismo che ha rovinato il nostro paese, ironicamente, si scatenano. Però vedi che se è così Walter Tocci ha più ragione che torto. Ma io tengo alta la bandiera di un impegno che il Parlamento deve prendersi nei confronti del mercato, che è un'istituzione, non è un capriccio, non è neanche declamando principi. Sì. E che devo fare? No, devi, il tecnico, tu sei un ipertecnico, deve dare soluzioni che tengano, che partano dalla realtà. La realtà è quella che ha detto Seminerio, è quella che i nostri due ospiti, sia pur da punti di vista, hanno ammesso. È quella la realtà. Ma rispetto alla quale, Andrea, se tu mi definisci l'importanza dell'antitrust. No, il problema è che non ne abbiamo avuto abbastanza di questa. È la prima, d'accordo. Anzi, neanche questa ce l'abbiamo. Perché ma proprio adesso perché Renzi si inventa se il telemarketing. Se tu mi declami il principio, dai una mano a chi non me ne vuole dare ancora di meno, Carlo Alberto. Questo. Ma siamo d'accordo, il punto è quello strumento, va fatta una riflessione? Siccome sì, ma ovviamente siamo diversi su questo. Canto grazie a Walter Tocci, grazie a Andrea Mazziotti per il loro impegno e noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Allora, si torna al titolare di questa rubrica che inizia per sottolineare i paradossi spesso in punta dei quali e dei quali parliamo, questa musica felliniana, cioè torna con noi Udo Gumpel. Grazie Udo di essere con noi. Grazie a voi, grazie a te per l'invito. E io devo, prima di arrivare al punto, però c'è un lettore che mi ha scritto e mi ha riscritto, perché non c'eri sabato scorso, si chiama Roberto, poi te la giro anche sulla mail, che dice no, lei deve leggere, io le chiedo per favore, Giannino, caro Roberto e Mario, di leggere la prossima volta che c'è Udo questa lettera, perché ci tiene davvero, io gliela leggo. Mio figlio, dopo la maturità classica, ha scelto di frequentare l'università in Germania. Ora, a 20 anni, frequenta il quarto semestre della facoltà di economia a Jena e sto constatando davvero che non ci sono proprio differenze con l'istruzione universitaria del nostro paese. Infatti, le tasse universitarie annuali non superano i circa 500 euro. L'università gli fornisce dal primo anno bilocale nelle vicinanze della facoltà a 180 euro mensili, libro per lo studio a disposizione nelle biblioteche, fotocopie, 5 licenze office gratuite, eccetera, eccetera, comprese le app. Il Land della Turingia lo fa viaggiare gratis su tutti gli autobus e i treni regionali. Ha inviato il suo curriculum alla Bundesbank a Francoforte per uno stage retribuito con rimborso spese di 3 mesi, obbligatorio per poter prendere la laurea triennale, e dopo meno di un mese è stato contattato da un responsabile che gli ha comunicato che la sua domanda è stata accettata. Il Dipartimento di Scienza delle Finanze gli ha proposto, a lui ma anche ad altri, di fare domanda per un posto di assistente retribuito con circa euro 400 al mese per un anno per un impegno mensile di 20 ore, naturalmente se si supera la selezione. Un ente o fondazione economica gli ha permesso di presentare la domanda per una borsa di studio ammontante a 600 euro mensili per tutta la durata della laurea triennale e anche della specialistica. Per tutti questi motivi le chiedo di ringraziare a mio nome e tramite il suo collega Udo Gumpel la Germania per le opportunità che questa nazione sta offrendo a mio figlio, che sicuramente avrebbe avuto nello stesso modo, nella stessa quantità, qualità e tempestività anche in Italia. Non le pare? Cordiali saluti, Roberto. Chissà come, ecco, mai non mi pare, no? Udo, e volevo leggertela, far incazzare tutti i nostri ascoltatori che ovviamente quando sentono la scelta che facciamo invitando si incazzano, però questo è un lettore che ci spiega perché è felice di aver mandato suo figlio a studiare in Germania e vi fa gli esempi concreti di come lì il sistema pubblico dell'università offre a suo figlio delle cose, facciamo il paragone. Però io non volevo che tu, volevo solo che ascoltassi e volevo che ci dicessi però quello che si legge sulla stampa internazionale, cioè che questa domenica nel voto amministrativo nella Lenda 3 milioni più o meno, se non ho capito male, se non ricordo male, cioè di Holstein, in cui si vota questo fine settimana, è davvero il passo per la fine delle grandi speranze su Scholz, perché la Merkel torni la candidata pressoché obbligata, poi domenica prossima si vota in un altro Lenda, questa volta un po' più importante. La più importante, sì, più esatto. Importante. E sì. Poi volevo chiederti al contempo, in questa riflessioncina al volo di politica tedesca, ma davvero diventa leader di Alternative für Deutschland, vediamo cosa succede domenica in Francia, un partito omofobo e nazionalista e sovranista diventa invece leader una lesbica dichiarata, lesbica dichiarata e che ha fatto carriera tutta la vita girando per il mondo scommettendo sulla globalizzazione perché è stata in Goldman Sachs, in Allianz, ha lavorato in Cina per Bank of China eccetera eccetera, questa Alice di nome Bedman di cognome di cui parlano i giornali, veramente ma non sono più i sovranisti di una volta neanche in Germania, caro ma Oscar. Non lo so, insomma illuminaci un pochino, che sta succedendo? Questa è una cosa assurda, la candidata numero 2 della AfD, a parte il fatto che voi dovete sapere che la AfD adesso sta scendendo paurosamente verso il 5%, dunque Scholz, che ha messo un accento politico sulla giustizia sociale, ha segato proprio le gambe all'AfD e poi adesso gli elettori in Germania capiscono bene che in realtà è molto meglio votare la Merkel perché lei capisce di economia e di queste cose, perciò infatti pensate si che si sta sgonfiando. Scusa, non ti ho sentito. No, dico AfD si sta sgonfiando. Si sta straordinariamente sgonfiando, che stava al massimo un anno fa circa il 15% nella crisi dei profughi, adesso sta intorno al 6%, dunque non neanche la metà. Cioè loro lottano per entrare nel Parlamento con la soglia del 5%, perciò siamo tranquilli, però è chiaro che il problema del populismo in Europa non è affatto risolto. Se in Francia questo weekend una signora può la signora Le Pen può aspirare ad arrivare vicino al 40%, esattamente la percentuale che anche grillini leghisti in Italia possono tranquillamente superare. Però è stata carina, però è stata carina la battuta della Le Pen quando ha detto: vabbè, ma in ogni caso la Francia sarà governata da una donna, o da me o dalla Merkel. Devo dire, però, infatti io ho scelto la Merkel. Questa è una battuta anche simpatica, però in realtà Macron ha un programma molto diverso anche dalla Merkel, e forse lui ha il vantaggio di provenire dal mondo bancario per capire come trovare in realtà nuove soluzioni al problema europeo, perché è chiaro che la Merkel, la Germania deve cambiare atteggiamento, non può essere solo quello di Schäuble, anche se è chiaro che in realtà se uno sta in una classe e di 27 studenti alunni ne hai 3-4 che hanno risolto i problemi di 20 anni fa, forse dovresti imparare da quelli che hanno risolto i problemi anziché dagli ultimi asini che stanno in ultima fila, no? E copiarsi sulla vicenda i compitini è già ritenuto sbagliati. Dunque forse qualcosa anche in Italia dovrebbe cambiare in questo senso, e il Duccetto, per dirne anche questo, il Duccetto forse farebbe meglio, anziché di fare proclami un giorno sì, un giorno no, anti-euro, pro-euro, di accaparrarsi i voti e dei delusi, di fare finalmente un programma di sostegno alle università, agli studenti, come ha detto questo lettore, esattamente quello che vivono peraltro anche i miei figli a Berlino. E posso solo aggiungere che non sono 600 euro la borsa di studio in Germania, ma 692, e poi chi è residente prende anche altri 200 euro in più. Cioè io ho dei figli che vengono sovvenzionati completamente dallo Stato tedesco, da noi contribuenti, con quasi 1000 euro al mese per studiare fino alla laurea specialistica, e naturalmente con costi universitari zero, peraltro zero, non costano 500 euro, costa zero, cioè l'iscrizione all'università è gratuita, no? Capito cosa vuol dire gratuita? Poi non devono neanche chiedere una tessera della metro di Berlino, peraltro, perché con la tua tessera da studente universitario viaggi gratis. Automaticamente viaggi gratis. Non ci fare. Quindi però, insomma, sintesi. Di Alternative for Deutschland possiamo anche non preoccuparci, si sta sgonfiando. E quindi è più un caso di colore questo caso. Anche se a me attira l'idea di questa qua, perché è descritta come una che ha tagliato la gola a chiunque. Lei era una moderata, poi ha ucciso il povero Bert Lucke tagliandogli la gola e così via. A me i tipi di leader di questo tipo di naso da lontano. Vediamo. Però in realtà possiamo considerare già stabilizzata la scelta in vista delle elezioni di novembre pro Merkel, secondo te, o qualcosa può cambiare? È sempre aperto il gioco, no? È aperto il gioco delle alleanze soprattutto, perché se i liberali, che sono in forte salita e con Christian Lindner, il nuovo capo, se loro fossero abbastanza forti e da solo con la Merkel non ce la farebbero, perché la Merkel viene data intorno al 36-38%, più liberali 6-7-8, siamo sul filo del rasoio. Allora magari si forma quello che noi chiamiamo coalizione Giamaica, no? Per i colori della del Giamaica, ovvero liberali, verdi, e perché sarebbe un bene per la democrazia e che la Germania vivesse una stabilità senza la grosse coalizione, perché la grosse coalizione significa sempre che i piccoli partiti trovano tanta visibilità, posizioni radicali e trovano posto, mentre in realtà dovrebbero essere due grandi alternative, certo, che dovrebbero alternarsi veramente. Cioè, per la democrazia in Germania io mi auguro un forte partito liberale, che poi peraltro le idee liberali erano un po' finite nel dimenticatoio, io che poi sono anche più di idea liberale sociale, e mi auguro in realtà che loro potessero anche se di nuovi leader della FDP, ma non lo so, per il momento non mi pare. No, di... quello lì è una figura leggermente populista. Però posso farti una domanda? Scusa, dimmi. Ma siccome voi non avete paura delle coalizioni in Germania, e perché invece in Italia dobbiamo avere paura delle coalizioni, secondo te? Perché questa grande paura di fare del parlamentarismo della politica in Italia? Questo secondo me ha molto più a che fare con gli elettori, lo chiederebbero, perché se uno lo vedesse dal punto di vista della scelta dell'elettorato, se un elettorato sceglie tre partiti maggiori, ciascuno un terzo, terzo, terzo, come avviene più o meno in Italia, è logico che due di questi terzi due di questi tre sarebbero chiamati dall'elettorato a coalizzare, no? Mi pare, giusto? Sì. Questa è la scelta complessiva dell'elettorato, dunque non c'è nulla di male. Di male c'è soltanto l'ego ipertrofico dei leader, in questo caso del Ducetto, o nell'altro caso Berlusconi, che secondo me sarebbe pure disposto perché poi non c'è neanche più in Parlamento, no? Grillo è uno, quello che vive, magari un giorno cambia idea, scioglie il suo gruppo, lo vende, il marchio, che ne so cosa farà lui dopo le campagne anti-vax, no? Che ha preso un bel shitstorm. Possiamo però parlare anche di questo aspetto, sì. questa cosa vergognosa di nascondersi dietro il dito della farmacovigilanza, di dire noi parliamo dei rischi, ma i vaccini sono le medicine di più grande successo della umanità, dell'umanità. E allora tu che fai propaganda contro sei veramente una vergogna, e giornali che tirano fuori che Roberto Burioni sia un massone come il Fango Quotidiano, il Fatto Quotidiano, si chiama Fatto Quotidiano, questo è vergognoso, vergognoso, è la vergogna della categoria giornalistica, se possiamo mettere adesso giornalistico tra parentesi, ok? Perché tirare fuori che il medico più importante della diffusione dei vaccini che salva migliaia di vite, ragazzi, io sono molto sensibile su questo perché mio fratello maggiore è morto per difterite quando negli anni 50 non c'erano con i vaccini. Allora state zitti, nascondetevi, no? Dico, scusate questa verve. Non è che ci difendiamo assolutamente, il tono giusto, anzi bisogna saperlo cambiare il tono come hai fatto tu, perché far capire che questa roba qui non è questione di politica, la destra e la sinistra, cioè la scienza è la scienza, cioè non si fa per non voto è nell'assemblea, non si vota via click su internet, è un lavoro durissimo di verifica dei dati che si mettono a voto. Io non è che adesso io voto a maggioranza se un vaccino funziona o meno, questo lo dicono siamo d'accordo, capito? Così funziona la scienza, ma qui evidentemente si deve mettere tutto a voto, no? Che l'idea in realtà viene da Berlusconi, perché lui diceva io non sono giudicabile perché io ho preso 5 milioni di voti. No, questo non è vero. Hai trovato un filo rosso, quindi. Beh, attenzione, però ha un fondamento anche questo, il contributo di Udo, del dire la sovranità la sovranità prevale su tutto. Ma no? Meno male che abbiamo una Costituzione che impedisce invece questo genere di... impedisce ai politici di dire puttanate. Purtroppo questo non questo ci riesce. No, questo no. Grazie ancora a Udo, Mario, che dalla Germania ancora ci ha fatto riflettere. Mario, però adesso ci torniamo con Mario, appena torniamo dopo un minuto di pausa, perché andiamo con Mario a fargli segnare un luminoso tragitto ottimistico. Sentirete un seminario ottimista appena torniamo tra un minuto. Non per Ferkam & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Ferkam.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ed eccoci qua. Renato, ci sei? Renato, non ci sei? Non ci sei ancora, Renato? No, perché Renato doveva ascoltare, perché noi non l'avevamo avvisato. Ci sei, Renato? Qua. No, perché dobbiamo essere tutti e quattro. Ci sono. Noi non abbiamo avvisato Mario che d'ora in poi gli chiediamo alla fine della trasmissione, come lui c'ha all'inizio, tecnico, non si parla, non si discute sul nitore e il rilievo del contributo che ci dà all'inizio su a che punto siamo, però gli chiediamo, violentando la sua natura, in chiusura di trasmissione, un là di 10 secondi, la grande cosa ottimistica della settimana prossima per Mario Seminari. No, vediamo se ci riesce, vediamo. Allora, forza. Sforzati. No, ma non ti abbiamo avvisato apposta. Dai. Ma la mia aspettativa ottimistica per la prossima settimana. Ma puoi segnalare la tua reale aspettativa, non reale, ma insomma, una nota di ottimismo per la prossima settimana. Ce la fai, Mario? No, ma se non mi avete avvisato, potuto preparare. Ma era questo l'esperimento. L'ottimismo per Mario Seminario richiede preparazione, tipo 15 giorni di studio. L'esperimento è riuscito! È riuscito l'esperimento. No, ma davvero, noi ci stiamo divertendo, perché l'esperimento guerra. Ci sono dette, ma no, non avvisiamolo, vediamo se ta-ta, gli esce una cosa. Vabbè, per l'ottimismo ci stiamo attrezzando. Questo è dalla prossima settimana, cari ascoltatori. Per l'ottimismo ci stiamo aspettando. E anche questo però è un dato su cui riflettere, perché vuol dire che nella realtà di grandi dati di ottimismo, la nota Istat di questa settimana dice sì, c'entra la crescita italiana, segni di decelerazione. La nota Istat, ragazzi, siamo già fermi e deceleriamo. La nota Istat questo diceva, no, non siamo fermi, però segni di decelerazione. Renato, l'hai fatta la domanda di questo cazzo di prestito ponte per la tua azienda dopo quello di Alitalia? Perché non li vuoi i soldi del prestito ponte? Ti mandiamo 7 commissari, cazzo, e un po' di hostess, dai, l'hai fatta sta domanda o no? No, mi manca, scusa. Secondo me noi siamo un po' in condizione di farli i prestiti ponti, però quello è un altro mio discorso. Ma non ti preoccupare, che se li pigliano i tuoi soldi se glieli dai. No, no, ad Alitalia ho metodi molto più divertenti per buttarmi i soldi che quello di Alitalia, insomma, se proprio devo. No, invece, visto che Udo si è lanciato contro il discorso degli antivaccinisti, eccetera, e oggi abbiamo parlato di concorrenza, io mi volevo lanciare contro l'Italia. Guarda che già abbiamo tonnellate di sms di insulti per Udo Gumpel, eccetera. A me dicono di occuparmi dell'azienda di Papi, quindi non ti preoccupare che siamo in buona compagnia. Ma siamo abituati agli insulti. Allora, io sono stufo di un paese che è contro la concorrenza, ma sono stufo perché la gente vorrebbe la meritocrazia e non hanno ancora capito che la concorrenza non è null'altro che la meritocrazia. Perché se c'è la meritocrazia, c'è la concorrenza. Se non c'è la concorrenza, vince chi è dentro e perde chi è fuori. Non vincono i più bravi, vince chi è dentro e perde chi è fuori. Non vincono i più bravi, perché vince chi è dentro e fine. Ma sai com'è? Chi è dentro organizzato, la politica è sensibile, perché chi è organizzato gli porta i voti oppure glieli leva, questo è il punto. Mentre i voti di chi non è organizzato può entrare domani, siccome non sono organizzati la politica dice nel calcolo attuariale attualmente mi conviene stare con chi c'è. Certo, però se noi non ci mettiamo in testa che dobbiamo tutti lavorare per la concorrenza, perché ci conviene come paese e ognuno cerca di salvaguardare la sua aiuola, noi non ci arriveremo mai, perché è vero che il tassista, così mi prendo un po' di insulti, è vero che il tassista è dentro e quindi difende la sua licenza, ma il tassista non si rende conto che a fronte della difesa della sua piccola aiuola, della licenza che lui ha per contro 1000 altri servizi che lui paga molto di più come cittadino, perché non abbiamo la concorrenza. Perché io pago il taxi quelle pochissime volte che li prendo di più perché il taxi non ha la concorrenza. E lui pagherà di più i farmaci, la corrente elettrica e determinati altri servizi. Avremmo dovuto imparare dalle due cose dove abbiamo avuto la concorrenza: l'alta velocità e la telefonia. La telefonia. Certo. Allora, le tariffe telefoniche, io sono abbastanza vecchio, io me lo ricordo ancora. Ma voi ve lo ricordate? Cioè, chiamavamo alle 10 di sera perché si abbassavano le tariffe, ragazzi. Cioè, vi ricordate? Si spendeva 1500 lire al minuto, lo ricordo, ma delle vecchie lire, mica di oggi. Cioè, di allora, cioè, fare una telefonata internazionale la facevi se e nel momento in cui eri costretto. Cioè, allora, tutte queste cose qua sono diventate spese in meno, cioè reddito disponibile in più, perché se io spendo per avere la stessa cosa meno, ho reddito disponibile in più grazie alla concorrenza. Se noi non instauriamo in questo paese del cavolo un po' di concorrenza, un po' di diffusa idea che la concorrenza è un bene, non andremo mai avanti. Renato, e dice uno che vive nel mondo della concorrenza, perché tu concorrenza, perché noi lavoriamo nel mondo, allora, lottiamo contro i cinesi. Vedi, il problema di questo paese è che il problema di produttività di questo paese è proprio dovuto dalla scissione dei settori esposti al, cioè i cui prodotti, beni e servizi sono commerciabili in Italia e fuori, da quelli che sono non commerciabili. È proprio quella la radice della bassa produttività italiana, perché i primi anni, un segno positivo, in alcuni settori maggiore di quello dei tedeschi come rateo annuale, nella media no, però positivo, gli altri negativo, negativo ma proprio pesantemente negativo. Quindi questo è il punto. Il problema della media politica, di Trelussa, sai, di un paese spaccato, esatto, in due, un paese, pezzo di paese che compete bene, benissimo in certi casi, e un pezzo di paese che non ci pensa nemmeno a competere, però, e magari ostacola le leggi sulla concorrenza, Renato, dicendo che sono non è tanto omnibus, solo eh? La scelta generale della concorrenza, perché il problema della regolazione è un problema delicato perché è tecnicamente complesso. Gli esempi di questa due settimane, quelli su cui Renzi poi ha detto in 24 ore cambiate idea, cioè tornate indietro, e ha preso a ceffoni i suoi propri parlamentari, cioè quello della legittima difesa e quello proprio nel disegno di legge concorrenza sul telemarketing, sono perfetti esempi di questo, perché sono scampoli di un intervento che viene fatto a pezzettini, che resta disorganico di intervento nella norma, e il risultato fa ridere. Fa ridere nel caso della legittima difesa, i cui pilastri di 52, dell'articolo 52, non vengono toccati dall'introduzione di un'ulteriore categoria psicologica come quella del turbamento e poi dei vincoli più o meno orari, tra l'altro scritti coi piedi, ma nel caso del telemarketing è veramente il paradosso del paradosso, perché la norma che, su cui l'autorità garante la privacy Soro dice no, ma come state mettendo gli utenti alla mercé di un'ondata di telefonate indiscriminate dei call center, dei gestori, dei committenti, in realtà questa osservazione, che di per sé secondo me ha un fondamento dubbio, però nasce dal fatto che è stata presa nell'emendamento sottoposto a fiducia un pezzo di un emendamento, mentre l'altro pezzo, che era l'intervento generale sul repertorio delle opposizioni, che è lo strumento che esiste per dire no alle telefonate, cadeva perché non si poteva fare, perché doveva passare la fiducia su quel testo lì, altrimenti bisognava ripassare dall'aula. Allora, un legislatore che non ha il controllo e non è capace di fare queste robe in materie molto complesse, significa per scegliere la continuità e la difesa dell'esistente. Questo è il problema, ancora di più è così, capito? E questo è un problema però sulla rappresentanza, che difende giustamente, lo capisco, Carlo Alberto, di fronte ai limiti degli eccessi, della radicalizzazione a cui può arrivare la scelta diretta. Io credo una scelta dal basso informata, lui vuole la rappresentanza, però la rappresentanza, come vedi, in Parlamento in queste materie non sa che cacchio fare, continua ad arrovellarsi, come dicevamo prima con Tocci, sulla legge del 92 taxi NCC, perché la delicatezza, la complessità, la fantasia di immaginare invece una regolazione che apra a tutte le piattaforme nuove e a forme di domanda e offerta diverse dal vecchio, e che contemporaneamente però significhi innestarsi su un progetto di visione di questi nuovi mercati che arrivano, non fa parte dell'ABC della politica e dei funzionari parlamentari che sono loro a redigere i testi. Questo è il grande problema su cui, dando ragione a Renato Cifarelli e dando un ringraziamento anche a coloro che ci hanno bombardato un po' di insulti anche oggi, caro Anacleto, il gufetto che abbiamo salvato in campagna, Anacleto, che ci ha ascoltato, perché io sono amico di uno di quelli che stanno nel centro, che mi ha detto ricordaci, perché così qualcuno ci dà i soldi. Allora andate a vedere, cercate Anacleto sui siti dei giornali, vedete questo gufetto che hanno salvato a Montesarchio, e vedete che quel centro presso cui si stanno occupando di lui ha bisogno di aiuto e sostegno. Lo faccio volentierissimo, però Mario, lo sai, da questa, la prossima settimana, la nota di ottimismo di Seminerio diventa... Studio. Mi preparerò. Però, per essere ottimisti in questo paese occorre preliminarmente essere ubriachi, e purtroppo io sono astemio. Come vedete, sarà un ottimismo. Ecco la nota di ottimismo di Mario Seminerio. Ti abbraccio e ti voglio bene, Mario. Allora, grazie a Carlo Alberto, grazie anche a Renato Cifarelli, grazie a tutti voi. Continuate su Radio 24, appuntamento con me, Alessandro Milano, alle lunedì alle 8:20, attenti a noi due, con il risultato della Francia. Macron. Questa è la mia scelta. Ma davvero? Fratelli d'Italia, l'Italia.